Garibaldi fu ferito di una gamba. Il Gazzettino del Risorgimento. Storie da una giovane Italia. Per Garibaldi, viva! Di Simone Spezia e Paolo Piacenza. 1864, l'enciclica Quanta cura è il sillabo degli errori moderni. Con quanta cura e pastorale vigilanza. Inizia con queste parole la lettera enciclica Quanta cura che il pontefice Pio IX in questi giorni di dicembre del 1864, segnati in Italia dalle tensioni per il trasferimento della capitale da Torino a Firenze, ha pronunciato per frenare ancora una volta ogni ipotesi di apertura verso i tempi nuovi. Il perché lo ha spiegato nella premessa lo stesso Pio IX. Ma quantunque non abbiano omesso di bandire spesso e di riprovare i più capitali errori di tal fatta, non di meno la causa della Chiesa Cattolica, la salute delle anime a noi divinamente affidate e il bene della stessa società umana richiedono assolutamente che di nuovo eccitiamo la vostra pastorale sollecitudine a sconfiggere altre prave opinioni che scaturiscano dai predetti errori come da fonte. Tali false e perverse opinioni tanto più sono da detestare, in quanto mirano in special modo a far sì che sia impedita e rimossa quella salutare forza che la Chiesa Cattolica, per istituzione e mandato del suo divino autore, deve liberamente esercitare fino alla consumazione dei tempi, sia verso i singoli uomini, sia verso le nazioni, i popoli e i supremi loro principi. Il pontefice punta l'indice contro l'esclusione dei principi divini della religione cattolica dalla politica, contro l'assoluta libertà di coscienza che si profila, scrive Pio IX, come libertà di perdizione. Va all'attacco anche delle leggi che minano l'educazione religiosa, che negano il divieto di lavori servili in certi giorni festivi, che espropriano la Chiesa del diritto di ricevere elemosine ed erogazioni. I nemici sono quindi tanto il liberalismo quanto il socialismo o il comunismo, ma anche indifferentismo e razionalismo assoluto, panteismo e naturalismo. I loro errori, perché nessuno faccia orecchio da mercante, sono puntualmente indicati nel sillabo, un elenco di proposizioni erronee che il Papa ha voluto seguisse l'enciclica. Al di là degli aspetti teologici e dottrinari, l'enciclica rappresenta anche una porta sbattuta in faccia al governo italiano. Nonostante l'alto prezzo politico pagato dall'esecutivo nazionale per il trasferimento dalla capitale da Torino a Firenze, allentando la pressione su Roma, dalle parti della Chiesa romana non arrivano segnali di pace. Anzi, forse anche per questo, Francesco De Santis su L'Italia, il giornale napoletano da lui diretto, ha ricordato che l'arrivo a Roma è solo rimandato. Noi andremo là, ha scritto, per distruggervi il potere temporale e trasformare il papato. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.